Capitolo 12. Sir Thomas doveva tornare in novembre, ma il figlio maggiore, richiamato dai suoi impegni, rientrò molto prima. Verso settembre giunsero infatti notizie di Mr. Bertram, prima in una lettera indirizzata al guardacaccia, poi in un'altra lettera per Edmund, e alla fine di agosto arrivò lui, per essere nuovamente gaio, piacevole e galante, a seconda di quanto sollecitavano le circostanze, oppure a richiesta di Miss Crawford, o per parlare delle corse, o di Weymouth, di feste, di amici, tutte cose queste che 6 settimane prima Miss Crawford avrebbe forse ascoltato con un certo interesse, ma che ora, grazie al confronto diretto, contribuivano a dare l'assoluta certezza di preferire a lui il fratello minore. La cosa era molto incresciosa e le dispiaceva cordialmente, ma era un dato di fatto, e ormai, lungi dall'avere intenzione di sposare il primogenito, nemmeno desiderava di attirarne l'attenzione più di quanto fosse il puro e semplice diritto di una giovane donna conscia della propria bellezza. D'altra parte, la prolungata assenza da Mansfield, protrattasi a suo arbitrio e a solo scopo di andarsi a divertire, dimostrò con chiarezza che non gli importava di lei. E poiché l'indifferenza dell'una era più che uguagliata da quella dell'altra, Miss Crawford pensava che, anche se si fosse fatto avanti in qualità di effettivo proprietario di Mansfield Park, nonché insignito del titolo di Sir Thomas, non si sarebbe lasciata indurre ad accettarlo. La stagione della caccia e gli inerenti impegni che avevano ricondotto Mr. Bertram a Mansfield chiamarono Mr. Crawford nel Norfolk. La tenuta di Everingham non poteva fare a meno di lui all'inizio di settembre. Partì per una 15ina di giorni che per le signorine Bertram furono di una così opaca monotonia che la cosa avrebbe dovuto senz'altro metterle allerte, perfino indurre Giulia, con la gelosia che provava per la sorella, ad ammettere l'assoluta necessità di diffidare delle attenzioni del giovanotto e a desiderare che non tornasse. E 15 giorni avrebbero dovuto concedere al giovane gentiluomo, negli intervalli tra una battuta di caccia e un sonnellino, tempo sufficiente per convincersi dell'opportunità di starsene lontano più a lungo e, se avesse avuto l'abitudine di analizzare i motivi del suo agire, di riflettere e capire dove si stava avviando con l'assecondare la sua oziosa vanità, ma reso spensierato ed egoista dalla prosperità e dal cattivo esempio, rifiutò di guardare oltre il momento presente. Quelle due sorelle, molto belle, intelligenti ed invitanti, offrivano un'ottima occasione di svago alla sua mente sazia e, non trovando nulla nel Norfolk che eguagliasse le piacevolezze della vita sociale di Mansfield, vi ritornò col massimo piacere alla data fissata e vi fu accolto con uguale soddisfazione dalle due fanciulle presso le quali si recava solamente per continuare a gingillarsi con loro. Maria, ridotta alla corte del solo Mr. Rushworth e condannata ad ascoltarlo ripetere monotamente tutti i particolari, piacevoli o spiacevoli che fossero, della quotidiana partita di caccia, buona o cattiva che fosse, le vanterie sui suoi cani, l'invidia per i vicini, i dubbi circa la loro abilità, lo zelo di cui faceva prova contro i bracconieri, tutti argomenti incapaci di interessare una sensibilità femminile se privi dell'aiuto di un certo brio nel narratore e nell'ascoltatrice di una minima dose di affetto, aveva sentito penosamente la mancanza di Mr. Crawford. Quanto a Giulia, libera dall'impegno di intrattenere un fidanzato e senza nulla che la tenesse occupata, si era ritenuta in pieno diritto di sentirne la mancanza ancor più della sorella. Ognuna si credeva la preferita. Giulia poteva esservi incoraggiata dalle allusioni di Mrs. Grant, propensa a credere vero ciò che desiderava, mentre Maria lo era da quelle dello stesso Mr. Crawford. Ogni cosa riprese dunque il ritmo che aveva avuto prima dell'assenza di lui. I suoi modi verso le due sorelle si mantenevano tanto briosi e piacevoli da permettergli di non perdere terreno né con l'una né con l'altra, pur evitando quell'assiduità, quella costanza, quella sollecitudine e quel calore che avrebbero potuto attirare l'attenzione generale. Fra tutti, Fanny era l'unica che trovasse qualcosa da ridire sulla situazione. Dopo la giornata trascorsa a Sotherton non le riusciva di vedere Mr. Crawford con l'una o con l'altra delle cugine senza mettersi istintivamente allerta e raramente senza avvertire un senso di perplessità o di riprovazione. E se la fiducia nel proprio giudizio fosse stata all'altezza del buon senso che adoperava in tutte le altre circostanze, se fosse stata sicura di avere una chiara visione delle cose e di giudicarle senza preconcetto, si sarebbe probabilmente indotta a fare qualche importante comunicazione al suo confidente abituale. Le cose, stando così com'erano, azzardò solamente un'allusione e l'allusione cadde a vuoto. «Sono alquanto sorpresa», disse, «che Mr. Crawford sia tornato così sollecitamente dopo essersi già trattenuto qui tanto a lungo prima. 7 settimane piene, avendo creduto di capire che gli piacevano tanto il cambiamento e gli spostamenti continui, ero certa che una volta partito da Mansfield sarebbe intervenuto un fatto qualsiasi a dirottarlo in qualche altra direzione e abituato a soggiorni ben più brillanti del nostro». «Che sia tornato qui torna a suo credito», fu la risposta di Edmund, «e sono certo che ciò rende felice la sorella. A lei non piacciono le sue abitudini disordinate». «Quanta simpatia hanno per lui le mie cugine!» «Sì, i suoi modi con le donne sono tali da piacere inevitabilmente. Credo che Mrs. Grant lo sospetti di avere una preferenza per Julia. Io non ne ho mai visto le apparenze, ma vorrei fosse così. Non ha difetti che non possano venire corretti da un sentimento serio». «Se Miss Bertram non fosse fidanzata», insinuò Fanny, «a volte penserei che ammira lei più di Julia». «Il che, forse», rispose Edmund, «dimostra una sua preferenza per Julia più di quanto tu, Fanny, non ti renda conto. Capita spesso, credo, che un giovanotto, prima di decidersi definitivamente, corteggi la sorella o l'amica intima della fanciulla alla quale vanno in realtà i suoi pensieri, più della stessa fanciulla prescelta. Crawford ha troppo buon senso per rimanere qui se si sentisse in pericolo di innamorarsi di Maria, e io non nutro alcun timore per lei, dopo la prova pratica che ha dato di quanto i suoi sentimenti siano forti». Fanny suppose che forse si era ingannata e propose di valutare le cose diversamente in avvenire, ma nonostante tutta la sua remissività di fronte a un giudizio di Edmund e gli scambi di occhiate e allusioni che di tanto in tanto notava in alcuni degli altri, e che sembravano sottintendere che Giulia era la prescelta, non sapeva sempre quel che doveva pensare. Una sera si trovò, per caso, a conoscere direttamente quelle che erano le speranze della zia Norris in proposito, come pure le sue impressioni e quelle di Mrs. Rushworth su un punto di analoga natura, e non poté fare a meno di meravigliarsi mentre ascoltava. Anzi, sarebbe stata ben lieta di non dover stare ad ascoltare, perché proprio allora tutti gli altri, i giovani, erano impegnati nelle figure di una danza e lei, controvoglia, se ne stava seduta tra le due chaperon all'angolo del caminetto in attesa di veder rientrare il maggiore dei cugini, da cui in quel momento dipendevano tutte le sue speranze di avere un cavaliere. Quello per Fanny era il primo ballo, anche se privo dei preparativi e dello splendore che generalmente accompagnano il primo ballo di una giovanetta. Era stato organizzato solo quello stesso pomeriggio, quando avevano scoperto che nella stanza della servitù era capitato un suonatore di violino e avevano pensato che, con la partecipazione di Mrs. Grant e quella di un nuovo intimo amico di Tom, da poco giunto in visita, sarebbe stato possibile mettere insieme 5 coppie. Anche così, comunque, per Fanny era stata una bellissima serata e ora, dopo le prime 4 danze, le dispiaceva assai di perdere anche un solo quarto d'ora. Mentre aspettava e desiderava, guardando ora verso le coppie impegnate nelle figure, ora verso la porta, udì, senza volerlo, il seguente dialogo che si svolgeva fra le due summenzionate signore. «Penso, signora», diceva Mrs. Norris con lo sguardo rivolto verso Mr. Rushworth e Maria, che si trovavano nuovamente per la seconda volta a ballare insieme, «che ormai vedremo di nuovo dei visi felici». «Sì, signora, proprio così», rispose l'altra con maestosa affettazione. «Sarà un piacere stare a guardare adesso, ed è stato un vero peccato, penso, che il susseguirsi delle figure li abbia costretti a dividersi. 2 giovani nella loro situazione dovrebbero essere esentati dal conformarsi alle regole della danza. Mi meraviglio che mio figlio non l'abbia proposto». Oso dire che lo ha fatto, signora. Mr. Rushworth non trascura mai queste cose, ma la cara Maria ha un così rigoroso senso delle convenienze, tanta di quella vera delicatezza così rara ai nostri giorni, Mrs. Rushworth, che desidera evitare di mettersi in evidenza. Cara signora, osservi solo la sua espressione in questo momento, quanto diversa da quella che aveva durante le ultime due danze. Miss Bertram sembrava veramente felice, i suoi occhi splendevano di piacere, parlava con grande animazione, perché Giulia e il suo cavaliere, Mr. Crawford, erano vicini a lei, essendo tutti e quattro uniti in una stessa figura. Che espressione la cugina avesse poco prima, Fanny non lo ricordava, poiché allora lei stessa stava ballando con Edmund e non aveva affatto pensato a lei. Mrs. Norris continuava intanto. È una vera delizia, signora, vedere due giovani così completamente felici, così ben assortiti e così perfettamente a posto. Posso solo pensare all'intensa soddisfazione che ne verrà a Sir Thomas. E cosa pensa, signora, circa un altro probabile matrimonio? Mr. Rushworth ha aperto la strada, certi esempi sono molto contagiosi. Mrs. Rushworth, che non vedeva nulla al mondo all'infuori del figlio, rimase perplessa. L'altra, signora, non vi scorge nessun sintomo? Ma già, Miss Julia e Mr. Crawford, sì, veramente, una combinazione molto appropriata. Qual è lo stato patrimoniale di lui? Ha 4.000 sterline di rendita all'anno. Oh, benissimo, chi non possiede di più deve accontentarsi di quanto ha. 4.000 sterline all'anno sono una buona rendita e lui sembra un giovane molto fine, ben educato, equilibrato. Perciò spero che Miss Julia sarà molto felice. Boh, la cosa per ora non è ufficiale, signora, ne parliamo solo con gli intimi, ma non ho dubbi che si concluderà. Le sue attenzioni si sono fatte molto significative. Fanny non udì altro. Mr. Bertram era rientrato nella sala e per il momento lei smise di ascoltare e di meravigliarsi, benché si rendesse conto che sarebbe stato un eccezionale onore l'essere invitata dal cugino, pensava che il suo desiderio dovesse realizzarsi. Tom venne verso il loro piccolo gruppo, ma invece di invitarla a ballare, spinse una sedia vicino a lei e le diede il resoconto delle condizioni di un cavallo malato e dell'opinione espressa dallo stalliere in proposito. Lo aveva lasciato appena un minuto prima. Fanny sentì naufragare la sua speranza e con la solita modestia subito si convinse di essere stata sragionevole nell'aspettarsi che si avverasse quanto aveva desiderato. Dopo aver detto del suo cavallo, Tom prese un giornale del tavolo e, scorrendolo, disse senza entusiasmo: «Se hai voglia di ballare, Fanny, ti farò da cavaliere». L'offerta fu declinata con più che pari cortesia. «No, non desideravo ballare». «Ma mi fa piacere», disse lui in tono brioso e, gettando giù il giornale, continuò: «perché sono stanco da morire. Mi chiedo proprio come faccia questa brava gente a continuare così a lungo». Bisogna che siano tutti quanti innamorati per provare piacere in questa follia. E lo sono, credo. Se li osservi, puoi accorgerti che sono altrettante coppie innamorate. Tutti, eccetto Yates e Mrs. Grant. E sia detto fra noi, la poverina potrebbe desiderare un innamorato come qualsiasi altra. Deve essere una vita maledettamente monotona quella che passa col dottor Grant. E mentre parlava, accennò con una smorfia maliziosa la poltrona di quest'ultimo, ma accortosi che era seduto proprio gomito a gomito, cambiò così prontamente espressione e argomento che Fanny, nonostante tutto, fece fatica a trattenersi dal ridere. Strana situazione quella che c'è attualmente in America, dottor Grant. Qual è la sua opinione in proposito? Io ricorro sempre a lei quando voglio formarmi un'opinione sui problemi di pubblico interesse. Mio caro Tom, esclamò la zia subito dopo, visto che non stai ballando, ritengo che non avrai nulla in contrario a unirti a noi per una partita a carte, vero? Poi, alzandosi e avvicinandosi a lui per dare maggior peso alla proposta, aggiunse in un sussurro: Sai, vogliamo mettere insieme un tavolino per via di Mrs. Rushworth. Tua madre lo desidera molto, ma non ha tempo per fare da quarta perché sta lavorando alla sua frangia. Così basteremo tu, io e il dottor Grant. Noi, signore, si gioca solamente di mezza corona, ma tu con lui puoi puntare una guinea. L'accontenterei col massimo piacere, rispose lui ad alta voce, balzando in piedi con alacrità. Ne sarei felicissimo se non fosse che in questo stesso istante devo entrare nella danza. Vieni, Fanny. disse prendendola per mano, non continuare a gingillarti o la danza finirà. Fanny si lasciò condur via molto volentieri, benché non le riuscisse di sentirsi veramente grata al cugino o di valutare in modo diverso, come evidentemente gli faceva, l'egoismo altrui e quello proprio. Proprio una richiesta di poco conto, parola d'onore, esclamò Tom indignato mentre si allontanavano. Pretendere di inchiodarmi per le prossime 2 ore a un tavolino da gioco. E il dottor Grant che bisticcia in continuazione con quella vecchia meschina che si intende di whist come si intende d'algebra. Ah, vorrei che la mia buona zia si desse meno da fare e chiedermelo a quel modo, per di più, senza cerimonie, davanti a tutti quanti, in modo da mettermi nell'impossibilità di rifiutare. È questo che mi urta più di tutto, per la pazienza quando qualcuno finge di chiedermi un favore, lasciandomi libera scelta e nello stesso tempo mi interpella in modo da costringermi a fare proprio quella cosa, sia quel che sia. Se per fortuna non mi fosse venuto in mente di ballare con te, non me ne sarei potuto districare, è una vera vergogna, ma quando alla zia viene qualcosa in mente, niente può fermarla.